Ok, siamo partiti. Allora, buonasera a tutti e tutti, siamo qui oggi con Blicero, un compagno che era a Genova nel 2001, per continuare la nostra serie di interviste. Noi, vabbè, faccio un'introduzione anche per, appunto, per Blicero e per chiunque ci sta ascoltando. La nostra intenzione è quella di provare a fare della storia, cioè provare a superare la memoria dei singoli anche delle singole parti di movimento che erano a Genova, per cercare di costruire una storia collettiva. Diciamo che se la massima di riferimento anche per Genova è sempre stata che la memoria è un ingrangio collettivo, ma a me in questo momento viene da pensare che potrebbe essere bello pensare a Genova adesso per costruirci una storia. La storia è una scelta, è un accordo collettivo. Quando ci si trova insieme si inizia a discutere su come la vediamo ugualmente, su cosa siamo d'accordo per quanto riguarda quelle giornate. Allora, noi abbiamo una serie di domande che adesso tra poco farò. Buon Blicero, la nostra intenzione appunto era questa, di superare le visioni personali, personalistiche delle varie parti di movimento e cercare di capire su cosa si può riflettere assieme. Per cui niente, rompevo il ghiaccio subito, che sto già parlando troppo, e ti chiedo semplicemente di raccontarci un po' qual è il tuo, cioè come sei arrivato a Genova col tuo vissuto personale, in che realtà eri, in che area, cosa andavi a Genova, cioè cosa volevi fare a Genova. E niente, cioè voglio raccontarci un po' qual è la tua situazione in quel momento. Allora, vabbè, faccio anche un paio di premesse. Primo è che penso che nessuno che mi abbia conosciuto nei miei lunghi anni nel movimento milanese non solo abbia mai associato Buon e Blicero nella stessa frase, quindi ti ringrazio, ma questo è dovuto totalmente alla tua giovane età e inesperienza nella relazione all'interno del movimento. E a parte le stupidate, in realtà vabbè, la memoria di un ingaggio collettivo è uno slogan che è stato coniato proprio, diciamo così, da uno dei soggetti di cui tuttora faccio parte e che rappresenta anzi al momento uno dei ancora pochi agganci alla militanza, che è Supporto Legale. Venne coniato in realtà da un fumetto di Zero Calcare proprio scritto per supporto, e quindi in realtà è una frase in cui credo molto. In realtà non penso che la storia sia un processo in cui ci si mette d'accordo, anzi penso che la storia sia un processo dialettico, quindi penso che le voci che danno punti di vista differenti di uno stesso evento in realtà arricchiscano particolarmente, e anzi penso che uno dei grossi problemi del post Genova, poi magari ci arriveremo alla fine dell'intervista, è stato proprio quello di cercare da parte di alcuni di cercare di costruire una visione uniforme di quanto era avvenuto, di che cosa rappresentava quell'esperienza e di ricondurla a una visione diciamo digeribile e forse anche facilmente difendibile, però non necessariamente realistica, di quello che hanno rappresentato quei giorni. Questo è un problema che purtroppo si perpetua, nel senso che se vediamo l'elenco degli interventi di chi andrà a ricordare Genova a Genova, vediamo gli stessi soggetti che hanno già provato a raccontare quella storia e dal mio punto di vista non facendo un gran servizio, però in questo forse ci arriviamo più avanti. Per quanto riguarda me, è abbastanza articolato, cercherò di essere schematico anche se non è molto facile, perché gli anni a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 erano anni in cui per alcuni era molto facile definire in che area fossero collocati, ma per altri era più difficile, perché anzi l'idea di area era un'idea che non sposavamo, io in particolare non sposavo, anzi una delle cose di cui mi sono sempre fregiato è stata quella di non appartenere a nessuna area, ma di essere, come dire, un soggetto che decideva in maniera libera e autonoma le affinità da costruire, che riusciva comunque a tenere in piedi rapporti anche con persone, soggetti provenienti da aree anche molto diverse. Questo non voleva dire che uno era d'accordo con tutti, perché anzi era più facile il contrario, però voleva dire che identificarsi in un'area significava già delimitare la propria azione in relazione a decisioni diciamo che non dipendevano solo dal tuo punto di vista. Quindi chiedo scusa, ma qua c'è la periferia che morde, quindi sono dei motorini che passano, speriamo che abbiano finito. Non ti preoccupare, io non li ho sentiti. Perfetto, vediamo, magari esistono. Rimarranno nell'audio, vedremo. Va bene, non c'è problema, comunque va bene, per carità, è la realtà, quindi anche esatto, a me esatto. Potrebbero esserci dei rumori a un certo punto, perché sono comunque qui nella situazione. Adesso l'ho sentito, questo è più, hai visto? Più sensibile. Più audibile. Perfetto, niente, basta, chiudo la finestra perché sennò qui andiamo avanti tutta la sera. Dimmi tu quando riprendo. Vai, vai, dimmi pure, ricomincia pure. Dicevo, quindi su fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, anzi, per quanto mi riguarda, la difficoltà che avevo era quella di avere fin troppi cappellini, nel senso che il mio percorso era quello di un compagno dei centri sociali milanesi, in particolare di alcuni centri sociali molto eterodossi. Vogliamo il nome a questo punto, dai. Beh, su fine degli anni 90 io ho occupato, insieme a un gruppo di altre persone che venivano sia dai centri sociali che da fuori, il centro sociale Breda occupata 3337. È stata un'esperienza breve ma molto intensa tra il 97 e il 99, un'esperienza molto intensa che aveva come caratteristica quella di offrire lo spazio a tutti di aggregarsi per fare politica e socialità, tant'è che all'interno dei suoi spazi diversi collettivi trans, altri spazi sociali in cui le persone si sentivano troppo come dire obbligate ad appartenere a un'area per poter seguire la propria attività politica, si trovano e costruiscono poi ulteriori esperienze sul territorio, per esempio l'esperienza che poi dalla rete autogestita degli studenti dei collettivi, la RASC, va a occupare il lavoratore sociale deposito Bulk, fare riunioni che poi porteranno all'occupazione del deposito Bulk proprio in Breda. Ma non perché facessero parte dell'area di Breda, perché non esisteva l'area di Breda, ma perché era uno spazio in cui ci vennero a chiedere: possiamo fare delle riunioni con gli studenti, che stiamo organizzando delle cose, e noi diciamo: guarda, quello è il cortile, quelle sono le sedie, ciao. E loro quindi si sentirono liberi di organizzarsi e, come dire, autodeterminarsi come meglio credevano. Ovviamente incontrandosi all'epoca, avevo 20 anni, quindi come dire, ero abbastanza vicino alla generazione che andava a occupare il Bulk, e quindi si creavano delle sinergie con loro e diedi una mano anche a quell'esperienza lì. Poi quando Breda venne sgomberata, sostanzialmente la mia militanza politica principalmente fu all'interno del laboratorio sociale Deposito Bulk, sia all'interno del collettivo che all'interno di alcuni collettivi che vivevano all'interno dello spazio del Bulk, ma che avevano una loro autonomia dal punto di vista politico e dal punto di vista, diciamo, dell'ambito in cui lavoravano. In particolare il collettivo di Chain Workers, che poi darà vita a San Precario, e il collettivo dell'OA Club, cioè del laboratorio hacker, che si formò proprio all'interno del laboratorio studentesco occupato autogestito Deposito Bulk, ma che era una realtà come dire, allo stesso tempo all'interno e completamente autonoma, perché raccoglieva nerd e compagni delle più svariate identità, e si era, come dire, insediato al Bulk proprio perché anche nel Bulk comunque al di là del fatto che una parte delle persone che partecipavano al Bulk poi nel corso degli anni si sono sempre più identificate con alcune aree, in realtà a Bulk c'era un ampio margine di autonomia per i collettivi che lavoravano al loro interno. Poi occupiamo appunto Metropoli, occupiamo, insomma, questa era un po' diciamo, la storia con cui arrivo. L'occupazione di spazi sociali a Milano, la militanza in questioni politiche e sociali anche cittadine di vario livello, dall'antifascismo alle questioni della precarietà, alle questioni della comunicazione e diciamo in generale dell'auto-organizzazione sul territorio milanese. In particolare quando diciamo arrivo verso Genova, l'esperienza del laboratorio hacker e della rete che stava dietro l'organizzazione degli hack meeting in Italia, aveva iniziato a dare vita anche ad altre realtà che si basavano sulla stessa rete di relazioni nazionale, cioè su una rete di collettivi o di spazi o di gruppi informali che si trovavano nei vari spazi sociali a livello nazionale, che insieme facevano delle cose, in particolare sulla questione delle tecnologie della comunicazione, della liberazione dei saperi, del copyright, del diritto d'autore, delle licenze, dei brevetti, sono tutti questi aspetti. In particolare mi riferisco ovviamente all'esperienza della fondazione di Autistici Inventati, che viene fondato proprio nel marzo del 2001, e poi della entrata massiccia da parte di tutta questa rete di persone all'interno di Indie Media Italia, che poi, come dire, sarà un po' il cappellino principale con cui questo giro di persone si presenta a Genova, diciamo. Questo è un po' il percorso che mi ha portato, quindi è un po' difficile, come vedi. Area politica non esiste, se possiamo identificarla, era un'area, come dire, che anzi faceva, almeno per quanto mi riguarda, ha sempre avuto come uno dei principali obiettivi quello di combattere l'egemonia delle aree all'interno del movimento e anzi costruire spazi, luoghi virtuali e non, dove tutti potessero, come dire, avere cittadinanza e sottrarsi quindi al gioco delle egemonie e quindi autodeterminarsi e costruire dei percorsi non basandosi sull'area di appartenenza, ma basandosi sugli obiettivi politici e i percorsi che si stavano costruendo, quindi che cosa si voleva fare e con quale obiettivo, indipendentemente dall'area di provenienza. E sì, onestamente penso, anche forse immodestamente, che lo siamo stati capaci di costruire questi spazi, che per molti anni sono stati veramente delle sorte di zone franche dove le persone, anche nolenti in alcune case, erano costretti a confrontarsi indipendentemente dalla propria area di provenienza, perché Indie Media lo è stato, le mailing list e tutto il lavoro offerto e i servizi offerti da Autistici Inventati lo sono stato, per buona parte della sua storia il laboratorio sociale gestito deposito bulk, il laboratorio studentesco occupato gestito deposito bulk, piuttosto che alcuni luoghi che poi abbiamo occupato quando siamo usciti dal bulk, come Reload e la fase finale dell'esperienza di Pergola, lo sono stati al 100%, e anzi forse in parte è stata anche questa nostra apertura e disponibilità a ospitare e dare gli strumenti che avevamo conquistato anche noi a tutti quanti, che a un certo punto alla lunga ci ha logorato e non ci ha messo in grado, diciamo così, di sopravvivere alle fasi più trucide del post Genova, diciamo. Allora, a questo punto la prossima domanda che ti faccio era, evidentemente quindi c'era un clima, diciamo, di confronto schietto tra le varie anime del movimento, ma me la metto giù così, in una battuta. Prima di Genova, dopo Genova? Prima di Genova. Ma in realtà, paradossalmente io penso che uno dei messaggi o diciamo degli elementi politici più rilevanti di Genova e che è stato rimosso dal dibattito pubblico è stato proprio questo, nel senso che prima di Genova c'è una sorta di gara per sgomitare, mettersi in prima posizione per dire chi è che c'è e che fa delle cose a Genova, chi è il protagonista. Ma quello che succede a Genova è l'esatta dimostrazione, come dire, che quando le mobilitazioni diventano veramente mobilitazioni di massa e hanno a che fare con come dire, degli obiettivi politici molto grandi, molto estesi, non so come dire, non è che c'è qualcuno che sta in prima fila e che può intestarsi la mobilitazione, ma la mobilitazione vive delle persone che ci sono, delle loro istanze e anche delle loro modalità di praticare conflitto. E Genova ha dimostrato che questo è quello che avviene. È stato rimosso dal dibattito pubblico questo perché era molto più rassicurante costruire questa immagine di un gruppo di diversi soggetti, anche di aree politiche diverse, ma che si sono confrontati, avevano costruito le mobilitazioni e ne erano i titolari, e poi i cattivi che sono arrivati a rovinare la festa. Però per chi ha vissuto per strada e dal vivo Genova in realtà è la dimostrazione, come dire, che se è vero che, come dire, esistono soggetti che si sono organizzati e hanno portato, come dire, delle istanze e delle azioni o un modo di intendere la mobilitazione molto organizzato e molto strutturato a Genova, è vero che quando una mobilitazione si pone degli obiettivi così grossi come quelli, come dire, in questo caso di combattere un certo modello di globalizzazione, un certo modello di economia e di società, non ci si può aspettare, come dire, che qualcuno ne sia titolare, ma ovviamente si apre lo spazio all'interpretazione di come rappresentare e praticare questo conflitto, che va un po' al di là di noi, e questa è una ricchezza di quello che è successo a Genova. È anche uno dei grandi rimossi collettivi, perché ovviamente la narrazione appunto rassicurante dei buoni e dei cattivi ci aiuta in qualche modo, o aiuta qualcuno a sentirsi sempre dalla parte dei buoni, certo, oppure a sentirsi dalla parte dei cattivi, perché anche quella è una posizione rassicurante, non so come dire, no? Mentre forse sarebbe più onesto, come dire, guardare con obiettività il fatto che esistono modi diversi di intendere il conflitto, e che Genova è stato forse uno degli ultimi momenti in cui, non l'unico ovviamente, in cui c'è stata cittadinanza per diversi modi di intendere il conflitto, e questo ha rappresentato una potenza enorme, ed è quello, come dire, che ci fa rimanere Genova nell'immaginario collettivo come un grande momento di mobilitazione e conflittualità. Allora guarda, proprio a partire da questa considerazione che facevi, giustamente, perché quando si parla di Genova molto spesso il dibattito mainstream sicuramente si arena sul buoni, cattivi, eccetera eccetera, purtroppo. Sì, praticamente è l'argomento principe. La seconda domanda che ti volevamo fare era la prendo da questa parte. Come si sono modificate allora dopo Genova i rapporti tra le aree? Se prima si sgomitava per essere davanti e dimostrare chi si era di più, che si era i più proprietari delle mobilitazioni, dopo è andata ancora peggio? Cioè, ci sono state delle marce indietro, si è capito l'errore, si è avuto un approccio differente? Cosa devo dire, è un po' già contenuto in quello che ti ho detto prima. Purtroppo io penso che tu dici il mainstream, il dibattito mainstream si è focalizzato su questa dicotomia, ma il vero problema è che quasi tutto il dibattito del movimento si è focalizzato su questa dicotomia, che poi viene associata inevitabilmente alla dicotomia violenza-non-violenza, cioè anche con una terminologia che già solo nei termini posti da questione ha, almeno dal mio punto di vista, svuotato completamente la possibilità di ragionare e analizzare Genova non per, come dire, il trauma che ha rappresentato per alcuni, politico o personale, ma per quello che effettivamente era. E cioè, io penso che ce la facciamo anche adesso. Quello che è successo dopo è che ovviamente ha la volontà di sgomitare e di mettersi in prima linea, è subentrata la diffidenza, no? E come se improvvisamente si scoprisse che esistono modi diversi di praticare il conflitto, e che ci si potesse assicurare che nelle mie mobilitazioni si fa come dico io, nelle mobilitazioni degli altri si fa come dicono gli altri. Dal mio punto di vista, in parte perdendo anche un po' di vista l'essenziale di una mobilitazione, che è: qual è l'obiettivo politico che stai praticando? Cioè, io quando costruisco una mobilitazione o un'azione politica, evidentemente mi pongo degli obiettivi. Poi io posso condividerli oppure no, però, come dire, il punto è sempre quello di chiamare a raccolta su quegli obiettivi le persone e costruire le relazioni che ti permettono di praticarli nel modo che vuoi tu. Ti faccio un esempio abbastanza chiaro. Negli anni dopo dopo Genova, una delle mobilitazioni più rilevanti a livello nazionale di sicuro è stata la May Day Parade. Sì, certo. Chi non lo sapesse, la parata dei precari del primo maggio, ne parlo perché, come dire, l'ho organizzata io, certo, insieme, certo, ai collettivi a cui partecipavo, e quindi ne posso parlare con cognizione di casa. Non è che ne parlo per bullarmi o per fare il figo, perché non, cioè, nel senso, la mia, ormai pensionato di movimento quale sono, non ha nessuna rilevanza. Ma percepisci anche la pensione? Arriva o sei solo pensionato? No, no. È una posizione puramente onorifica, diciamo. A parte le stupidate, però, quelle mobilitazioni sono state mobilitazioni enormi, cioè che hanno portato in piazza fino a 100.000 persone in alcuni anni. E nella fase centrale, diciamo, nella fase di massima espansione di quelle mobilitazioni, anche all'interno della May Day, che pure erano dei momenti di grande, come dire, creatività, mobilitazione intesa come anche forma gioiosa di affermazione della propria identità e delle proprie istanze di conflitto, non so come dire, ci sono stati anche dei momenti, come dire, di maggiore tensione, oppure in cui le azioni che sono realizzate avevano vari livelli, diciamo così, di scontro e di conseguenze anche sul piano, diciamo così, penale, no? Però, nonostante questo, tutti quelli che venivano e partecipavano a quelle mobilitazioni lo facevano coscienti che c'era un certo tipo di obiettivo, un certo tipo di volontà, e, come dire, e le relazioni che avevamo costruito come collettivo, tenendo aperti i canali con tutti e cercando di spiegare il nostro modo di intendere le cose con tutti, hanno sempre fatto sì che tutti rispettassero quel tipo di mobilitazione e che interpretassero la loro presenza in relazione a quel momento lì. Dal mio punto di vista, le May Day sono anche figlie di una riflessione su Genova e sulle potenzialità, come dire, di coinvolgere tutti nelle tue mobilitazioni, senza aver paura del fatto che, come dire, talvolta alcune forme di intendere il conflitto non rispondono agli obiettivi che ti poni. Però non è che tu puoi dire a qualcuno che cosa deve fare e che cosa non deve fare, o hai una relazione con queste persone, questi soggetti, ci costruisci insieme anche una forma di rispetto reciproco, o non c'è possibilità da questo punto di vista. Allora, Genova poteva essere questo trampolino, cioè il trampolino per, come dire, prendere atto delle differenze anche in termini di come dire, pratiche, e ricostruire la capacità di essere in relazione tra tutti. Però questa possibilità è rimasta incastrata nel rimosso collettivo del trauma, delle violenze, che dovevano avere un colpevole, quando la verità è che, come dire, il colpevole, diciamo così, delle principali violenze e del trauma che hai avuto a Genova è lo Stato. Certo. Non è che c'è tanto da discutere, cioè è la tua controparte, tu sei andato a scontrarti e quello ha risposto, cioè, non è che potevi stupirti tanto. Poi magari tu pensavi di scontrarti in un modo, ti sei scontrato in un altro, però anche ci sei solo tu. Ci sono 300.000 persone, i tuoi militanti erano 10.000, nel senso, cioè, è un po' così, no? E questa, secondo me, è la riflessione che manca. Dopo Genova è mancata, è rimasta incastrata nel dopo Genova, e prima o poi sarebbe bello che si riuscisse a fare, come dire, a viso aperto. Purtroppo temo, ho delle perplessità in merito, tant'è che noi da 20 anni, come supporto legale, andiamo avanti a dire queste robe qui, e da 20 anni vediamo che alle commemorazioni ci vanno gli stessi, come dire, che mentre le persone venivano caricate a buffate di mazzate, si preoccupavano di chiudere il corteo con un bel discorso dal palco, no? Cioè, parlavi sul palco, in fondo alla strada tiravano i lacrimogeni in testa alla gente, cioè, come dire, una sorta di, questo manifestava una sorta di distanza, no? Tra il tuo obiettivo politico e la realtà, di cui non è, alcuni non hanno mai preso atto, non so come dire, no? Hanno continuato a raccontarsi la favola che alla fine non era colpa loro, era colpa di X. Certo. E, però la logica della colpa è una logica che non aiuta molto, secondo me, quando vuoi costruire una riflessione politica, perché cioè, cosa, dopo che ce l'hai, cosa te ne fai? Non so come dire. Ma quindi, cioè, passando un attimino più sul tuo piano personale, come sei tornato da Genova? Cioè, qual era il sentimento, qual era le idee che avevi? Proprio, cioè, se riesci a ricordarti com'eri appena tornato e Sì, magari io me lo subito ricordo molto dopo. bene. Ah, ok. Lo ricordo molto bene perché, vabbè, intanto appunto per ritornare sul personale, vabbè, le persone devono sapere che io ero il responsabile del Media Center, quindi della scuola Pascoli, ok? Cioè proprio responsabile nel senso che proprio ho firmato le carte di presa in consegna dei locali dove poi c'era Indie Media, c'era tutta la sede del Genoa Social Forum e di fronte c'era la scuola Diaz dove le persone dormivano. E quindi, come dire, io sono rimasto lì fino all'ultimo, e tant'è che sono l'ultima persona a entrare nella Pascoli prima dell'irruzione, nel senso che io ho chiuso il cancello della Diaz e poi mi sono girato, mi sono buttato dentro il Media Center perché stava avvenendo l'irruzione. Quindi, come dire, vivo quella notte nel centro degli eventi, non so come dire. E quando finisce quella notte, mi ricordo che appunto, non so neanche come arriviamo bene la mattina perché è una notte lunghissima, cioè nel senso nella mia mente è una notte che dura molto di più delle ore, che è durata effettivamente. Mi ricordo che il giorno dopo, a un certo punto, dopo che sono collassato per terra alla fine del ride e di tutto quello che succede dopo, mi alzo, recupero le mie cose e vado a prendere il treno per tornare a Milano insieme ad altri, insieme a tutti quelli che si stavano rientrando a Milano. Mi ricordo che arrivo in Pergola perché non sapesse, era uno spazio sociale che c'era in via della Pergola, una zona isola e che è uno spazio tra quelli un po' così, no? Antiegemonici, quindi aperti a tutti, dove si riusciva a fare le cose insieme perché era un po' una zona franca. E lì infatti si era deciso di fare uno dei punti di raccolta per organizzare la controinformazione successiva alle giornate di Genova, no? Seguire cosa stesse succedendo. Ricordo che arrivo in Pergola e il tono delle discussioni di tutti è per me intollerabile. Cioè, tutte le persone sono già incastrate in quello di cui abbiamo parlato, diciamo, nei dibattiti sterili tra buoni e cattivi, violenza o non violenza, su di chi è la colpa, tutte queste cose qua. E nessuno si pone il problema di quello che sta effettivamente succedendo, di quello che ancora sta succedendo. Quindi praticamente io arrivo e non so quanto tempo passa, ma poco, mi giro e ritorno a Genova. Ritorno a Genova e mi metto d'accordo con i pochi compagni che sono rimasti lì, mi faccio prestare una casa dai compagni di Genova, mi becco con le poche persone che sono rimaste a Genova, non sono scappate via, e con i ragazzi tedeschi che erano rimasti per seguire i loro compagni, i loro amici che erano ancora in carcere, e iniziamo a fare quel lavoro di andare a trovare in ospedale le persone che erano state massacrate alla Diaz, andare nei carceri a capire quando rilasciavano le persone, andare a seguire tutti questi aspetti, diciamo così, legati alle conseguenze della repressione. Perché per me era intollerabile tornare a Milano e come dire, ritrovarmi in mezzo alle discussioni che in quel momento mi sembravano totalmente prive di senso, cioè c'erano persone in carcere, persone massacrate di botte, persone in ospedale, persone che non si capiva dove fossero finite, robe da raccontare. Tutta una narrazione da costruire e il movimento era lì che si guardava l'ombelico. Non sono mai stato tanto bravo, diciamo così, a tollerare questa roba e quindi ho preso e ho fatto quello che ritenevo più utile. Sono tornato giù e mi sono messo a fare quello che potevo, quello che sapevo e sono rimasto giù praticamente tutto agosto, lì in due o tre più questi ragazzi tedeschi, una situazione surreale in cui praticamente a Genova erano rimasti solo noi, gli sbirri e basta. Cioè, una compagnia sgradevole, insomma. Ma era un po' surreale più che sgradevole, perché tu giravi, non c'era nessuno, le strade erano deserte, però contemporaneamente era come se ci fosse un eco permanente di quello che era avvenuto, e tu ti dovevi muovere in questo, diciamo così, in mezzo a questi fantasmi veri o immaginari, però su una serie di necessità molto molto concrete, perché appunto dovevi andare a capire se tiravi fuori quello dal carcere, dovevi andare a trovare quello in ospedale che, cioè, non sapevi se sopravviveva oppure no, e dovevi andare a capire se quello che era sparito, era vivo, era morto, dove cavolo era, hai capito? Certo. E quindi era veramente un po' una dissonanza emotiva molto molto forte, devo dire la verità. Quindi mi ricordo molto bene dove ero il mese dopo. E poi io sono partito. E dopo questo io ho preso e sono partito all'estero. Certo. Sono andato all'estero un po' per seguire degli altri Contro Summit e un po' in realtà per coltivare le relazioni all'interno del network internazionale di Indie Media e per consolidare quindi il nodo italiano di Indie Media attraverso poi la costruzione di relazioni. Quindi sono andato negli Stati Uniti, poi sono andato al meeting della PGA, le relazioni globali dei popoli, poi in Palestina, insomma varie cose. Un bel giro. Ma parecchi bei giri. Esatto. Bei non so se è il termine corretto, esatto. Però sicuramente bei, come dicono i giovani, mi dicono che per loro bei vuol dire interessanti, quindi io mi attengo a questa cosa. Va bene, allora sei interessante. Diciamo che sicuramente non te l'hanno pagata la trasferta, va. Ecco. Di nuovo come la pensione, solo tanto onore. Ascolta, ma invece poi ci torniamo proprio sul finire, sul cosa avrebbe dovuto, su cosa dovrebbe ripensare il movimento a distanza di 20 anni a Genova, ma adesso invece ti faccio una domanda diversa. Adesso ti volevo chiedere una cosa del tipo: su cosa ti sei ricreduto? Cioè, passati 20 anni, ti sei reso conto che quella cosa lì che dicevi dopo Genova, quell'aspetto lì che sul momento non ti era piaciuto, non avevi capito, pensavi fosse una cazzata, invece con passare degli anni ho detto no, effettivamente mi devo riconoscere che quell'aspetto lì su Genova aveva ragione quella o quell'altra anima di movimento che diceva quella determinata cosa. Se c'è qualcosa del tuo giudizio su Genova su cui nel passare del tempo ti sei ricreduto, hai avuto dei ripensamenti? Adesso ti deluderò, ma la verità è che io, come dire, mi riconosco totalmente e pienamente nello slogan che come supporto abbiamo sempre usato e usiamo anche quest'anno per il fumetto che sta per venire ripubblicato, e il cui titolo è "In ogni caso, nessun rimorso". Perché la verità è che no. Cioè, la verità è che io penso che la lettura che almeno io ho dato di Genova, il modo in cui io insieme ai miei compagni e alle reti di cui facevo parte abbiamo interpretato il nostro essere lì, quello che abbiamo difeso dopo e il percorso che abbiamo fatto dopo, che dura tuttora a 20 anni di distanza, perché le cose non si lasciano a metà, soprattutto quando, come dire, a farsene carico sono pochi a nome di molti, non so come dire, penso che fosse proprio la lettura corretta di quello che bisognava fare lì. Ne sono fortemente convinto e quindi onestamente, è evidente che il mio punto di vista su molte questioni si è evoluto nel frattempo, non so come dire, però si è evoluto in maniera in continuità, non so come dire, non si è evoluto con una cesura in cui io mi sono dovuto fermare e dire quello che dicevamo lì era sbagliato e bisogna fare il contrario. Anzi, mi è più capitato più spesso di dire già lì dicevamo alcune cose e da quelle cose ne conseguono altre che mi fanno dire quello che sto dicendo adesso o quello in cui credo adesso, non so come dire, al di là, come dire, poi della possibilità o della capacità di fare o meno militanza in una fase della propria vita, non so come dire, no? Certo. Come dire, la convinzione politica e la propria posizione non è che cambia. Cambia magari la capacità di praticarla. Okay. Purtroppo sì. Ma allora a questo punto, beh, abbiamo già parlato tanto durante l'intervista, però effettivamente è bene, secondo noi, farlo in una domanda con una risposta proprio ad hoc. Cioè, secondo te, a 20 anni di distanza, da cosa dovrebbe ripartire il movimento per tornare a essere forte come era Genova? Perché cioè, nel senso, molto spesso ci si perde su questa cosa, ma a Genova c'era un movimento che era grandissimo, era fatto di tantissime anime diverse, era numeroso, era disposto appunto a un livello di conflitto molto alto comunque, anche se vabbè, questa cosa appunto è controversa sicuramente, però prima l'hai accennato rispondendo ad altre domande, adesso la domanda è proprio diretta, cioè da cosa dovrebbe ripartire il movimento per essere così forte, così capace di influire sulla realtà? Io penso che in realtà dovrebbe partire da prima di Genova, non da Genova. Okay. Cioè io quello penso che manchi, la mia percezione un po' da esterno in questa fase della mia vita del movimento, perché onestamente, cioè nel senso, poi io mi metto a disposizione per le interviste tutto, spero di non risultare troppo un vecchio trombone perché li ho sempre odiati e quindi onestamente non mi piace essere in questo ruolo qua, però quello che io vedo mancare è la capacità di conquistare degli spazi di agibilità sul territorio, all'interno delle relazioni sociali tra i vari soggetti e all'interno dei luoghi fisici e mentali che si attraversano, di conquistare degli spazi, difenderseli e garantirne l'autogestione e l'autogoverno. Cioè io penso che la ricchezza che poi è stata portata a Genova si fondasse sulla possibilità delle persone di fare esperienze di vita, le chiamo alternative, diverse, estreme in alcuni casi, conquistandosi, difendendo e vivendo luoghi fisici e mentali sottratti alle modalità tradizionali di relazioni, di governo e di gestione dei luoghi. Questo io penso sia quello che manca di più, è quello da cui secondo me bisognerebbe ripartire per ricostruire, fino a che, come dire, le persone non avranno la possibilità di fare un'esperienza di vita diversa e di conquistarsi, come dire, una propria autonomia di visione di vita e di costruzione di un modello su come vivere, sarà molto difficile, come dire, per me coinvolgere qualcuno nel rivendicare un modello diverso, perché dire il mondo deve essere diverso in forma accademica o come auspicio, come dire, è un po' come metterci una scritta sul cartello, sono bravi tutti, hai capito? L'esperienza di vita in cui tu prendi un posto che è abbandonato e ci metti dentro quello che vorresti tu, o quello che vorresti offrire agli altri, o incontri altri che vogliono offrire altre cose, ti scontri con quelli che non vogliono farti fare le cose nel modo in cui dici tu, fisicamente, mentalmente, socialmente, politicamente, scontri in ogni modo e ti incontri in ogni modo, quello è l'aspetto che manca. Senza questo aspetto, come dire, di vita concreta, è un po' difficile secondo me per le persone maturare una propria coscienza, anche in termini di quello che vogliono e in che forma è diverso quello che vogliono rispetto a quello che li circonda. È uno spunto davvero molto interessante. Io stavo riflettendo mentre parlavi, perché questo discorso è emerso anche altre volte, naturalmente, soprattutto lungo questi 20 anni, naturalmente, ma durante l'anno della pandemia. Nel senso che la pandemia ha dimostrato come forse sarebbe il caso di creare un mondo differente e che allora sarebbe possibile veramente vivere meglio in un mondo che fosse gestito in un'altra maniera. Vivendoci un pochino dentro il movimento durante l'anno di pandemia, ho notato che c'è stata tanta attivazione da parte dei centri sociali, dei collettivi, le brigate, ma anche semplicemente nella solidarietà, nel mutualismo, per cui nell'intenzione di provare a creare o di gestire nella maniera più materiale possibile, cioè proprio partendo dal cibo, dai bisogni di base, la vita delle persone, creando questo tipo di autonomia, cioè sognando questo tipo di autonomia. E la riflessione a cui ogni tanto sono giunto è che nella realtà questa cosa un po' ci ha allontanato da quella visione più conflittuale e cerco poi di tornare, cerco subito di tornare su Genova, che era anche nello spirito di Genova. Cioè a Genova si diceva un altro mondo è possibile, un altro mondo noi lo vogliamo e vi vogliamo attaccare perché non ci rappresentate, dovreste andarvi, dovremmo essere noi a decidere il nostro futuro. Cioè quella parte di conflitto a Genova è stata forse addirittura sovrarappresentata rispetto a tutta quella parte di movimento che diceva noi abbiamo il modo di vivere diverso e lo facciamo giorno per giorno. Cioè ecco, talvolta mi sembra che la ricerca di trovare un modo di vivere in forma autonoma pur stando all'interno del sistema capitalismo, perché purtroppo o per fortuna i nostri centri sociali, i nostri luoghi sono anche i teorici, sono immersi dentro il neoliberismo, il capitalismo, le correnti filosofiche, ma anche proprio fisicamente nelle città, per cui cioè non so come dire, noto che talvolta la creazione dell'autonomia diventa quasi crearsi l'isola, abbandonare un po' la realtà e cercare di vivere dei piccoli momenti o dei piccoli luoghi dove Beh, ma in parte può essere, però allo stesso tempo io ti posso ribaltare la domanda e ti dico, bene, la pratica del mutualismo, le brigate, tutto bene, però tutta quella roba lì è bella, è utile, ma se non diventa anche un modo, come dire, per far capire alle persone che hai intorno che il modo che hai tu di vivere e che in alcuni casi confligge direttamente con il modo che hanno loro di intendere il buon vicinato, non so come dire, o la vita normale, è però legittimo, allora, come dire, hai fatto semplicemente, certo, sei stato un surrogato dell'assistenzialismo, certo. E questo è un problema, nel senso che non è che è brutto in sé, però non c'è bisogno di essere un centro sociale o un soggetto di movimento o un soggetto, come dire, che vuole un'alternativa per essere, come dire, una stampella dell'assistenzialismo, che poi per carità in una certa fase sarà è sicuramente una cosa importante e bisogna prendersi cura del prossimo, non so come dire, no? Io non, perché mancherebbe che dico una cosa negativa, però se questo non diventa una forma per legittimare la tua alterità, non per normalizzarla, ma per legittimarla, è un po' messa un po' più in grande forse lo stesso errore è fatto sulle valutazioni di Genova, cioè il fatto che a Genova alcuni abbiamo scelto una certa forma di conflitto sì. Non andava normalizzata, ricondotta, no, ma loro hanno fatto così perché gli sbirri li hanno piccati. No, cioè esistono persone che hanno deciso di praticare un certo modo di fare il conflitto perché per loro quello rappresentava opporsi al sistema capitalista. Concretamente, a te non piace perché per te è una stronzata, è puerile, è infantile, che cazzo ne so, ok? Però non puoi, come dire, cercare di normalizzarlo perché così tu te ne stai tranquillo e hai dato una motivazione che, come dire, razionalizza questa cosa. Devi legittimarlo. Devi legittimarlo perché nel momento in cui lo legittimi, diventa, come dire, una controparte dialettica con cui discutere, con cui articolare una relazione, con cui costruire un confronto. Confronto che può essere, come dire, convergente, divergente, parallelo, che cazzo ne so, però è un confronto vero. Che ha un valore politico, che riconosce un valore anche a una cosa che è altra da te. Allora, come dire, le forme di mutualismo, le forme che sono state praticate durante la pandemia, sacrosante, come dire, di appoggio alle persone che non ce la facevano, che ne avevano bisogno, vanno tutte bene, ma sono un meccanismo per rientrare in contatto con alcune persone che ti consideravano un corpo estraneo e rientrare in contatto non per dire io voglio essere come voi. Ma per dire, io sono un'altra cosa, ma sono un'altra cosa che, come dire, esiste. Può non Certo. piacervi, può piacervi, potete non essere d'accordo, ma esiste e se esiste deve essere, come dire, Presa in un soggetto considerazione. da prendere in considerazione quando leggi la realtà che ti sta intorno. Certo. Va bene, allora guarda, noi per tua fortuna andiamo al termine, così non ti teniamo in ostaggio ancora per molto. Penso che sia assolutamente utile, giusto e sacrosanto parlare del libro in uscita come Indymedia, se non ho capito bene, mi pare di capire Ci sono che. diverse cose, Dai, in allora questo raccontaci momento stanno un po'. uscendo allora, varie cose. Come supporto legale esce, è già uscito un numero con Zapruder, scritto in collaborazione e in cui alcuni pezzi, secondo me, anche rispetto al dibattito di stasera, sono molto interessanti, secondo me. In Ok. particolare devo dire la verità, io penso il pezzo scritto da un compagno tedesco che fa un po' un'analisi dei movimenti tedeschi in 20 anni, diciamo così, è molto molto interessante come spunto, e anche le lettere dei compagni condannati per il G8 che hanno deciso di contribuire, secondo me sono, offrono un punto di vista interessante, perché offrono un punto di vista di persone che hanno pagato per quello che è successo a Genova, e tutti e tre, quelli che hanno, come dire, contribuito con questa lettera, sostanzialmente un po' hanno lo stesso punto di vista che ho cercato di esprimere io stasera, no? Sulla legittimità del conflitto in tutte le sue forme. Quindi è uscito Zapruder, uscirà adesso il 1 luglio, esce una nuova versione del fumetto, noi avevamo fatto questo fumetto che si chiamava Genova contro il G8, un'antologia di fumetti con poi dei testi politici all'interno, ne esce una nuova edizione con un nuovo testo, diciamo così, di introduzione che abbiamo scritto e che secondo noi interpreta bene il senso di questo ventennale, con dei nuovi fumetti molto belli, a mio avviso, secondo me è un prodotto veramente che spacca, e che presentiamo il 10 luglio in Conchetta, con anche l'amico Zero Caicare che viene di persona a firmare un po' tutto quello che si vuole fare. Superstar. Vabbè, serve anche quella. Giusto. Portiamo a casa anche quello. Ce l'abbiamo. Esatto, scusi. Poi noi stiamo ultimando proprio in questi giorni un documentario su supporto legale, che secondo me sarà molto interessante perché racconta questo pezzo della storia di Genova che probabilmente non tutti conoscono, ma che è un pezzo molto particolare di Genova, che è quella di un soggetto che per 20 anni affianca, come dire, il percorso anche repressivo con un atteggiamento politico. E lo presentiamo il 20 a Genova, la prima, quindi al CAP di Genova. Noi a Genova ci saremo come supporto, ma non siamo all'interno del programma, diciamo così, ufficiale, tutto il carrozzone, come lo chiamiamo noi. Avremo due serate al CAP gestite in autonomia, quindi chi vuole venire a parlare con noi è ovviamente il ben accetto al CAP il 20 e il 21 sera. Poi, questo come supporto legale, e poi un gioco, vabbè, abbiamo fatto un giochetto, Hockey Riot, che vabbè è un po' un divertimento, però è un gioco dell'Oca un po' divertente, insomma. Invece come Indie Media esce, come Indie Media, alcune persone che hanno partecipato alla storia di Indie Media fanno uscire un libro che esce anche quello il 14 luglio, e che è in realtà un po' come, se qualcuno se lo ricorda, il libro che Autistici Inventati ha fatto dopo i suoi primi 10 anni, che era un libro di interviste poi curate e cucite insieme per dare una visione d'insieme di quello che era il progetto Autistici Inventati. È un po', diciamo così, il libro su Indie Media è così, sono interviste a persone che hanno vissuto l'esperienza di Indie Media e che poi sono state un po' cucite insieme per, come dire, raccontarne la storia. Quindi insomma, questi è un po' tutte quelle cose a cui ho editorialmente più o meno partecipato in questi ultimi periodo, e che arrivano a conclusione in questi giorni, diciamo. Ok, tra l'altro qui mi sa che, cioè, io adesso svelo una cosa, ma che tu sapevi già, cioè noi abbiamo una talpa che forse ci metteremo d'accordo per presentare il libro a Milano in un evento che è ancora un po' da organizzare, però so, il 16 magari, mi pare. Scoop, forse è il 18, forse è il 18, vediamo se riusciamo a mettere le conferme a tutte le varie questioni, a mettere insieme i pezzi. Fate conto che più andate vicini al 19 più per me diventa difficile esserci. Perfetto. Perché devo trasferirmi giù. No. Vabbè, sì, cerchiamo di fissare subito, quindi il 16 no problem, ho già dato l'ok a Lambretta, no? È la stessa cosa di cui parliamo. No, mi sa che è un'altra, quindi vedi, si moltiplicano gli appuntamenti. No, noi dobbiamo farla qui da noi, in zona sud. Vabbè, ne parliamo. Ne parliamo, esatto, se ci sono a disposizione, ovviamente. Esatto, va bene. Allora, guarda, l'ultimissima domanda, perché così anche finiamo col più leggero. Dato che siamo comunque una radio, vorremmo chiederti un brano con cui concludi e mettiamo dopo la tua intervista. Che ti ricorda Genova, per cui sei particolarmente legato, oppure anche quello che hai ascoltato stamattina, non c'è nessun tipo di problema. Va bene, che domanda difficile. Non so, cosa si ascoltava a Genova nel 2001? Di tutto, sicuramente. Io nel 2001 a Genova non ascoltavo un cazzo perché lavoravo al Media Center 22 ore al giorno per una settimana, penso di essere uscito in tutto 3 ore da quel cazzo di posto, quindi non ascoltavo niente a parte il suono delle crimpatrici, non so come dire. Che cosa posso dire? Ma non lo so, vediamo sul facile, una qualsiasi 99 posse. No, facciamo una cosa facile, anche se non è necessariamente di Genova, però secondo me vai. Si apprezza bene che è quelli che ben pensano dell'amico Frankie High Energy. Va bene, e allora la mettiamo dai. Subito dopo la tua intervista. Va bene. Licio, ti ringraziamo tantissimo, ti facciamo sapere quando usciamo, insomma, ti diamo tutte le cose. E grazie mille davvero. Grazie a voi. Ciao. Ciao.